Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, buongiorno. Dopo questa edizione di GR24 ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24. Poca voce, ma è sempre il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. E questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia, soprattutto oggi che ho poca voce. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola. L'hashtag, sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio è un po' lungo, usiamo le iniziali, cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Per una volta parliamo di noi, di Radio 24, perché da lunedì il debutto radiofonico di Enrico Ruggeri, che sarà con noi in diretta per svelarci tutto sul falco e il gabbiano, le tecnologie con Enrico Pagliarini, parliamo di musica, lo streaming rivoluziona il mercato e cambia le abitudini degli italiani, il cinema con tutte le novità del weekend in sala, ma subito la televisione, il successo inarrestabile, stagione dopo stagione, di una trasmissione che è diventata un cult. Cottura della carne, direi molto bene, la salsa buona, poi c'è la parte piccante, salata, un po' aggressiva del caviale, mi piace l'idea, ha impiattato molto bene, più o meno un po' come impiatta Caracol, il signor Caracol. Tu guarda, quando un piatto è fatto bene, impiattato, vedi, io l'ho tagliato un pezzo, ho toccato la salsa, ho toccato 3-4 elementi e il piatto è ancora bello, e quindi questo è già un quid in più, no? Grazie. Prego. Sono molto molto contento. Bisogna dare un po' di numeri. Giovedì da record per Sky, in particolare per l'ammiraglia Sky 1, 1.275.000 spettatori medi per gli episodi 13 e 14 di Masterchef. È il miglior risultato di stagione, non possiamo che commentarlo con uno dei protagonisti di Masterchef, lo confesso, il mio preferito. Buongiorno a Bruno Barbieri. Ciao, buongiorno. L'ho detto, fatto coming out, il mio preferito. Anche tu sei la mia preferita. Ah, ecco, bene, ce lo siamo detti. Bruno, ma sai che qualche giorno fa qualcuno diceva: com'è possibile che Masterchef continua a battere record su record? Tutto sommato se ne parla poco, perché ormai non fa più notizia, non si sottolineano più, viene fa dato notizia, per scontato. Fa la notizia il giorno che nessuno lo guarderà più, ma credo che sarà nel 2055, no? No, sono d'accordo. A te come ha cambiato la vita questo successo di Masterchef, o non l'ha cambiata per niente? Un po' la vita l'ha cambiata, però io non sono cambiato io, no? Cioè, nel senso che sono esattamente quello che ero prima di fare Masterchef, perché comunque faccio un lavoro in questo momento che mi piace, raccontiamo una storia insieme a Carlo, insieme a Giù, raccontiamo una grande storia italiana, raccontiamo la storia del nostro territorio, del nostro paese, la storia di tanti piccoli produttori che ogni giorno si svegliano e producono, si alzano e lavorano e producono tante buonissime cose che poi finiscono nelle nostre tavole, e già questo mi dà una gioia ed è una cosa divertente. Piace alla gente perché raccontiamo questo, cioè raccontiamo una storia vera e raccontiamo anche la storia di tante persone che magari, sai, nella vita avevano un sogno, no? Magari nella vita facevano altre cose, però avevano un sogno nel cassetto: cucinare la materia prima, il cibo, la storia italiana, e quindi attraverso Masterchef hanno la possibilità di fare e di dimostrare anche quello che era comunque un loro sogno nel cassetto. Perché io penso questo, lo vorrei dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando: alla fine, sai, i sogni poi si avverano, no? Che meraviglia! Sai che io, a me piacciono molto le seconde possibilità in generale, e mi piace quando Masterchef lo sottolinea. Certo, sono molto d'accordo su questo. Io ho sempre avuto dei grandi sogni, come tutti quanti nella vita abbiamo dei sogni nel cassetto, perché ci stimolano, no? Ad andare avanti, ci stimolano a fare sempre di più, a cercare sempre quelle cose che magari, sai, tante volte si fanno delle cose e non si ha il coraggio di tirarle fuori, no? Non si ha il coraggio di tirarle fuori da dentro, no? E quindi questo programma, perché voglio dirvi anche questo, secondo me MasterChef non ha cambiato solo il modo di fare cucina in televisione, ma ha proprio cambiato il modo, il pensiero del cibo, della cucina a casa della gente, no? Oggi la gente al sabato, nei weekend, a fine settimana, quando magari sono un po' più liberi dal lavoro, e cosa fanno? Cucinano, perché comunque è creatività, no? Ti stimolano le cose, poi ci piace invitare la gente a casa, fare vedere anche dove abitiamo, dove viviamo, come abbiamo apparecchiato una tavola, come abbiamo impiattato. Adesso anch'io, quando io faccio il formaggino con le fette biscottate, non lo so, anche le cose che tiro fuori dal frigo, guardo il piatto e dico: ma devo impiattare adesso? E poi la cosa straordinaria, sono d'accordo su questo, e poi la cosa straordinaria è che è un programma che piace molto ai giovani, è un programma che non ha età, no? Piace ai ragazzini di 5 anni, ma piace anche al nonno di 90, e quindi voglio dire, perché c'è quella parte un po', anche un po' di suspense, un po' di thrilling, un po' di poi lo vediamo durante la settimana. Io ho visto questa ultima puntata dove c'è stato Nicolò che ha preso qualche sgridata. Attenzione, Nicolò è un concorrente bravissimo, ha cucinato e cucina molto bene, quindi voglio dire, poi è giovane, no? C'ha degli stimoli, però ogni tanto bisogna dargli un po' di stop, sai perché? Poi la gente, sai, i ragazzi stanno anche davanti a una telecamera, non è facile. Non è la stessa cosa. Magari un pochino più di quelle cose, capito? E poi diventano un po' più aggressivi e diventano un po' più, insomma, bisogna fargli capire che tra il giudice e il concorrente c'è sempre quel metro di distanza, quindi bisogna sempre stare un po' sul chi va là, perché attenzione, per vincere MasterChef bisogna stare concentrati dall'inizio alla fine. Se ti lasci andare, pertanto la televisione arriva dopo per questi ragazzi. Noi vediamo che cosa è diventata Racida, no? Racida, quella della seconda edizione. Ma infatti io volevo chiedertelo, perché avete creato anche dei personaggi che avete... Anche perché, detto tra noi, comunque stiamo parlando di Sky, quindi stiamo parlando dei numeri della TV satellitare su abbonamento. Certo. Ma lei è diventata talmente un fenomeno di costume che è andata sull'isola, che andrà se riescono a sbarcare. Ecco, e questo, sai che cosa vuol dire? Vuol dire che MasterChef non è uno di quei programmi che ti fa diventare solo cuoco, ma puoi fare altre cose, puoi ti dà la possibilità di fare anche altri mestieri, dal teatro, vediamo il dottorino, quello che ha vinto l'anno scorso, fa teatro, cioè voglio dire, attenzione, e quindi ti dà l'opportunità, apre molte strade, è chiaro che bisogna avere un po' di talento, no? Quanto secondo te i programmi di cucina, la passione per i programmi di cucina, MasterChef ma non solo, ha aiutato gli italiani, lo dicevamo, sì, a impiattare, a voler, ma a sviluppare una cultura del cibo? Forse con la pubblicità un po' si era persa. Sono d'accordo, ha cambiato molto, cioè ha cambiato proprio anche il modo di porsi, il modo di cercare anche un rigore, di raccontare attraverso un piatto, che è quello che poi facciamo noi chef di mestiere, no? Attraverso un piatto raccontiamo chi siamo, quindi anche a casa, cioè la gente ha capito che anche a casa bisogna mangiare in un modo diverso, bisogna mangiare in un modo un po' più sano, bisogna ricominciare a tornare al mercato, no? A un certo punto i mercati sono spariti dalle nostre città per far posto ai negozi, alle bancarelle che vendono souvenir, che vendono magliette, con tutto il rispetto per chi fa questo lavoro, però attenzione, si sono perse quelle cose un po' che ci fanno capire qual è la nostra storia, no? Quindi noi siamo in uno dei paesi più importanti al mondo a livello gastronomico, non esiste, guarda, io giro in lungo e in largo l'Italia, non esiste niente, un paese più importante del nostro a livello gastronomico e anche a livello di territorio. Il problema è che te ne accorgi solo quando stai all'estero, cioè dopo un po' che sei all'estero ti rendi conto che l'Italia ti manca. Questo è importante, bisogna che ci rendiamo conto di questo, perché abbiamo un paese meraviglioso. Tu pensa, di quest'anno siamo andati a fare un'esterna nelle prime puntate Sant'Agata di Goti, io sinceramente l'ho visto, io sono sempre davanti alla TV, non conoscevo questo paese, però ho capito una cosa di là, che quando sono arrivato una meraviglia totale, però poi mi sono fatto una domanda e ho detto: beh, se gli americani sono venuti qua a girare tre film, ci sarà un perché, no? Ci sarà un qualcosa, e quindi ti rendi conto poi guardando con gli occhi in alto e vedi queste bellezze, vedi questi piccoli terrazzi, vedi queste strade con questa vecchia pavimentazione, delle chiese meravigliose. Ci abbiamo una storia veramente, dobbiamo solo imparare a fare del marketing bene, e credo che poi gli altri se la devono giocare, no? Che passione si sente, come era dimenticato, che passione si sente da Bruno Barbieri. Bruno, ti chiedo un'ultima cosa, perché il nostro Cristian Goldoni in redazione mi ha ricordato che tu avevi fatto uno degli spot, quelli di MySky, in cui dicevi che ti registri anche le cose di politica. Cosa fare questo fine settimana? Ti guardi tutte le notizie? Beh, quelle sempre. Perché poi col nuovo presidente... Sai, sono molto contento, intanto in bocca al lupo al nuovo presidente, finalmente ce l'abbiamo, no? E poi, sai, uno non te ne rendi conto, però siamo stati una settimana, senza, con tutto il rispetto per chi ne ha fatto le veci, però avere, non averlo, no? Ti sembra di stare un po', di essere un po' debole, no? Come situazione, come modo di pensare, come modo di vivere, no? Come modo di stare in Italia, non c'è il Presidente della Repubblica. Quindi sono contento che sia stato eletto, credo che avrà anche adesso una bella responsabilità, dovrà fare un grande lavoro, dovrà dimostrare comunque di un grande sapere, no? Perché non è facile, ci sono tanti cavalli nella nostra politica italiana imbizzarriti, no? Ognuno vuole dire la sua, insomma, bisogna metterlo un po' a posto, no? Sto paese, perché siamo forti. Ragazzi, io me ne rendo conto andando in giro per il mondo di quanto noi italiani siamo 10 spanne sopra tutti. Grande, grande. Se riusciamo a capire questo, beh, cioè, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Dico l'ultima frase, guarda, un secondo solo. Se tu vai in giro per il mondo e vedi una persona che si veste bene in strada, stai pur sicuro che indossa abiti italiani, no? Sì. Se vai a mangiare in qualsiasi ristorante in tutto il globo, esci dal ristorante e dici, cavoli, però sono mangiato bene, stai pur tranquillo che un cuoco italiano dentro la brigata di cucina c'è. Quindi con queste due piccole cose possiamo dire che, insomma, ci vuole tutti uniti e via la grande, no? Grandissimo. Bruno, io ti dovrò per forza richiamare, anche perché c'è Valeria in regia che vorrebbe non lasciarti andare mai. Quindi ti rivogliamo al sabato del villaggio. Ok, ci vediamo ragazzi tutti giovedì prossimo, c'è un grande puntatone. Ah, bene, bene, bene. Quindi tante stelle, no? Wow. Giovedì sera. Abbraccio a tutti. Grazie, grazie a Bruno Barbieri. Noi ci ritroviamo tra poco ancora col sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. Io ve l'ho detto che avremmo parlato anche un po' di noi, un po' di Radio 24, concedetecelo, non lo facciamo mai. Fatemi fare un lancio di una trasmissione nuova, perché da lunedì alle 15.30, tutti i giorni, per un'ora, da lunedì al venerdì, il debutto radiofonico di... Beh, io direi che ci possiamo anche ascoltare insieme la sigla in anteprima, eccola. Falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono qua col microfono spento che la sto cantando. No, già non ho voce per parlare, non ho certo voce per cantare. Che meraviglia, abbiamo con noi Enrico Ruggeri. Buongiorno Enrico, buongiorno collega Enrico Ruggeri. Buongiorno, cantala. Scendi in campo. Sì, cantala, sì, guarda, facciamo. Ti prometto che te la canto quando ho un po' più di voce, perché io la so tutta, ma le so tutte. Enrico, sei pronto per questa avventura da lunedì? Beh, sì. Sì, sono pronto, intanto perché è una cosa, era uno dei miei sogni segreti che coltivavo da un po' di tempo. Poi devo dire, sono pronto perché la squadra è ottima, ottimi autori, insomma, sono circondato e coccolato. Adesso mi sembra di essere un calciatore che fa le dichiarazioni quando arriva in una squadra, quindi devo anche dire, fin da bambino ero tifoso di Radio 24, come fanno il calciatore che arriva uno della Costa d'Avorio e dice sono sempre stato della Juve o dell'Inter, no? E poi però poi devono mantenere però i calciatori. Tu cosa esatto. che allenamento hai fatto? Ma l'allenamento è coltivare la mia curiosità e la mia ignoranza, perché io racconterò storie sulle quali tutti noi pensiamo di sapere molto e invece sappiamo molto poco, o addirittura storie che rischiano di essere perdute nel tempo. quindi so, ti faccio velocemente degli esempi. Su Braille tutti noi potremmo dire è un signore probabilmente non vedente che ha inventato la scrittura per ciechi. Poi in realtà invece è una storia meravigliosa di un bambino cieco degli inizi dell'Ottocento che a 12 anni mette a punto il sistema che porta il suo nome e che nel frattempo suona il violoncello, è un piccolo genio che ha fatto una cosa bellissima, insomma, per tutto il contesto sociale nel quale si muoveva. Oppure storie, partiamo con una donna coraggiosa, una donna che si chiama Alfonsina Strada, che agli inizi del Novecento decide di diventare una ciclista professionista. Vi puoi immaginare in quegli anni, insomma, in cui la donna non è che aveva accesso a tutto, quanto sia stato difficile il suo percorso e propedeutico a molte altre donne. A proposito di donne, io so, perché ho curiosato, perché io in redazione curioso, so che parlerai anche di una donna che io amo particolarmente. In atmosfera Rolling Stones, Marianne Faithfull, io aspetto molto i tuoi racconti musicali, Enrico. Beh sì, anch'io, ci sono tante storie interessanti. Marianne Faithfull è una storia meravigliosa. Intanto parliamo di una delle donne più belle degli anni 60. È vero. Una donna che, come dire, tocca con mano la storia di quel periodo, una donna della quale si innamorano Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, anche contemporaneamente, quindi anche in maniera, diciamo, un po' multiplamente trasgressiva. Erano anni più vivaci e si facevano cose più vivaci. Una donna che sfiora più volte il baratro, una donna che poi diventa, continua a fare dischi, coccolata da tutti i membri della Nouvelle Vague, perché oggi dai Blur agli Oasis ai Pulp a Nick Cave, tutti corrono a scrivere canzoni, a lavorare con lei, perché ha ancora un ascendente incredibile, pur essendo adesso un po' agie. Per cui poi fa dei film, fa un film meraviglioso che si chiama Il talento di Irina Palm, che vi consiglio. È straordinario, divertentissimo peraltro. Quindi una donna che con ironia porta in giro ancora oggi la sua leggenda e anche, come dire, il fatto che sia sopravvissuta a quegli anni, perché non tutti ce l'hanno fatta. Ma che bello sentire Enrico Ruggeri raccontare le storie, non è proprio un caso. Io però, tu racconti le storie, adesso le racconterai in radio, le hai sempre raccontate con la musica, le hai raccontate con i libri, le hai raccontate in televisione, però io voglio parlare appunto di musica. Per ascoltare insieme qualche nota di una canzone, io ho avuto davvero l'imbarazzo della scelta, perché vabbè, io ho scelto questa. Rien ne va bleu. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero. L'incognita apparente di uno zero. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Dico che ho avuto l'imbarazzo della scelta perché tu ti sei fatto svariati festival di Sanremo, io direi che sì, ne hai fatti, allora aspetta che faccio il conto, 80, 84, 86, 87, 93, sono tanti, due vittorie, sì. 1987 si può dare di più, 1993 Mistero, avrei potuto scegliere una di queste due, ma io sono particolarmente legata a Nuovo Swing e a Rien ne va plus. E già ti dico che io vorrò i tuoi racconti dei retroscena dei tuoi Sanremo, quindi dobbiamo risentirci in zona festival. Volentieri. Enrico, che impressione ti fa riascoltare queste canzoni? Non dico contessa, che eri proprio un bambino, ma che impressione ti fa? Ma devo dire, sono pur essendo uno di basso profilo, che tiene basso il profilo, sono orgoglioso. Viene va più, insomma, una canzone che al festival arrivò agli ultimi posti, prese il premio della critica. Il premio della critica al quale io sono molto affezionata, quindi non potevo non favorirla tra tutte. In tutti i casi è rimasta, perché poi i festival di Sanremo danno tre graduatorie: la prima, che è quella immediata della vittoria, la classifica eccetera, poi c'è la seconda, che è quella della vendita dei dischi, e la terza, che è quella del tempo, che ovviamente si rivela essere la più importante. Per cui devo dire che in questo senso, insomma, ci sono parecchie canzoni che io ho portato a Sanremo che in qualche modo non hanno ancora addosso l'usura del tempo. Contessa è una canzone che non posso non cantare in concerto, ma anche Nuovo Swing, Rianeva Più, anche Primavera Sarajevo, Nessuno Tocchi Caino, insomma, devo dire, insomma, di essere riuscito quasi sempre a lasciare un segno al festival. Ma tu, quando ti rivedi biondo con i Decibel, che impressione ti fa rivederti? Insomma, l'impressione che fa a tutti rivedere le proprie foto di 20-30 anni prima. Erano anche anni particolari, per nostra fortuna devo dire non c'era internet, per cui in realtà tu andavi a Londra, stavi una settimana, tornavi e portavi in Italia della musica nuova, dei vestiti nuovi, delle immagini nuove, e il mondo era più ingenuo, quindi questo devo dire facilitò quelli come me, perché se tu guardassi tutto il festival dell'80 vedresti veramente quanto i Decibel erano un corpo estraneo. Lì andavano i gruppi col cappello cotonato, la camicia con lo sbuffo, le voci in falsetto, no? Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, secondo Enzo Malepasso con Ti Voglio Bene. Devo dire che la terza, terzo Pupo, terza però un cult Su di Noi di Pupo, che poi è passata la storia, anche quella a onor del vero. A suo modo è un pezzo che è sopravvissuto egregiamente, insomma, anche se, come dire, in un altro settore. Però ecco, l'arrivo dei Decibel quell'anno fu veramente o la valla spacca, però eravamo veramente diversi da tutto. Ecco, oggi per chi fa musica è un po' più difficile, perché oggi, insomma, se un Maori fa un bel pezzo, dopo 10 giorni viralmente arriva nei computer di tutti, no? È vero, verissimo. Enrico, io da lunedì ci racconterai appunto un sacco di storie, sì. Invece adesso sono curiosa di sapere, te lo chiedo così a bruciapelo, cosa ascolti tu, perché così mi consigli anche qualcosa da ascoltare. Cosa piace adesso in questo periodo a Enrico Ruggeri? Che musica piace? Ma sono uno dei meno adatti a dare perché dei consigli. Quando tu hai parlato della musica che avresti scelto per il Falco del Gabbiano, hai detto Clash, hai detto... Ho parlato di Clash, ho parlato di Progressive, ho parlato di David Bowie, ho parlato degli Sparks. Beh, roba sempre buonissima. Di tutte cose, insomma, non esattamente attuali. Sicuramente, insomma, non sarà la trasmissione dalla quale sentire gli ultimi successi, i successi del momento e gli eroi di queste stagioni. Per cui un po' di segno voglio lasciarlo, insomma, mettendo una musica che a me piace. Straordinario, Enrico. Allora, l'appuntamento da lunedì 15:30-16:30, quindi è un'ora, il Falco e il Gabbiano. Sì. Belli questi racconti. A me è piaciuto molto il fatto che tu abbia detto che poi per tutti è possibile sempre il colpo d'ala in qualsiasi situazione per raddrizzare la propria vita e riprendere il volo. Questa è una cosa. Assolutamente, soprattutto se si ha voglia di. Dico una frase scontatissima, mettersi in gioco, diciamo, se si ha voglia di cambiare e se non ci si siede. Questo vale veramente per tutti, anche per quelli che magari non faranno l'invenzione del secolo, non scriveranno la canzone del decennio, però essere giudicati bene da se stessi è già un ottimo risultato. E noi continuiamo a volare, speriamo alto. Grazie Enrico, allora l'appuntamento con te è da lunedì alle 15:30, a presto, e poi ti aspetto anche per spettegolare un po' su Sanremo. Quando ok. Vuoi. Grazie Enrico, a presto, grazie ciao, Enrico Ruggeri. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco, dopo una breve pausa, ancora con il Sabato del Villaggio. Adesso aguzzo gli occhi per vedere se è arrivato Enrico Pagliarini, non lo so ancora, ma lo aspettiamo, a tra poco. Il Sabato del Villaggio. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. Si chiama Ed Sheeran ed è stato il cantante più ascoltato nel mondo sulla piattaforma streaming di Spotify. Cos'è lo streaming? Beh, è la possibilità di ascoltare la musica senza possederla fisicamente su un computer, su un CD, su un tablet, ma la ascoltiamo o grazie alla pubblicità o pagando un abbonamento mensile. Questo tipo di fruizione della musica un tempo si diceva che era il futuro, adesso possiamo dire che è il presente. E di questo argomento parliamo in questa seconda parte del Sabato del Villaggio, che come sempre vi terrà compagnia fino alle 18, perché lo streaming traina. Per i dati che sono stati diffusi questa settimana, dati di Deloitte diffusi dalla Federazione dell'Industria Musicale Italiana, lo streaming traina il mercato discografico italiano, che cresce del più 4% nel 2014, dopo 11 anni brutti. Il 2013 ha avuto un aumento, il 2014 ha avuto un altro piccolo aumento, insomma si resiste, è una buona notizia per l'industria italiana, ma anche il segno che le nostre abitudini stanno cambiando. Ne parliamo. Intanto abbiamo in diretta il presidente della Federazione dell'Industria Musicale Italiana, Enzo Mazza. Buongiorno Enzo. Buongiorno a tutti. Eccolo qua. E poi Enzo, ti confesso che in questo momento, praticamente col fiatone, è arrivato in studio anche Enrico Pagliarini. Enrico? Non ho il fiatone. No, sei salito piano per non avere il fiatone. Allora, però non... No, sono salito di corsa. Allora è il fisico. Enrico, cioè, ci ho messo un minuto per recuperare. hai fatto con calma. Sì. L'ho spiegato bene lo streaming della musica. Sì. Sono riuscita a farlo un po' capire. Sì, il concetto base comunque è quello di ascoltare cose senza possederle. Si diceva un tempo. Si parlava, adesso è passato un po' di moda, musica liquida, si diceva. In effetti, il paragone con l'acqua o con qualsiasi altro, però l'acqua, secondo me, è un paragone buono. Noi non è che abbiamo a casa la cisterna con migliaia di litri d'acqua. Noi apriamo il rubinetto e l'acqua esce. Ecco, la fruizione della musica oggi, almeno di quelli che hanno già un servizio di streaming o sono abbonati o lo usano gratuitamente, perché un'altra grossa novità è che c'è ampia possibilità per ascoltare musica gratis. Una volta lo si poteva fare solo con la radio o lo facevano i pirati, ancora oggi, però oggi ci sono effettivamente tanti servizi per ascoltare musica in modo gratuito. E poi parliamo anche di questi servizi, se sei di buona qualità audio, non qualità artistica. Però insomma la novità di questi ultimi anni è una novità che è stata confermata dai consumatori in questi ultimi dati. Siamo ancora nella fase iniziale di questo mercato, non a caso i numeri crescono di più 30, 40, 50, 80%, insomma, sinonimo di un mercato che è ancora molto giovane. Quando i mercati sono maturi crescono di poche percentuali. Enzo, cosa ne dici di questo che sta dicendo Enrico? Sei d'accordo? Ma sicuramente lo streaming ha incontrato il favore dei consumatori, perché sono piattaforme che sono intanto molto facili da gestire anche dal punto di vista della mobilità, quindi il connubio smartphone e servizi streaming è stato probabilmente anche un elemento vincente, soprattutto anche nel nostro paese dove c'è una penetrazione mobile molto elevata, anche se tuttora è ancora questi servizi sono più utilizzati da PC. Però diciamo che la percentuale di consumatori, soprattutto molto giovani, che utilizza questi servizi attraverso gli smartphone è cresciuta enormemente, quindi si sta ampliando in realtà la platea dei consumatori di musica. E poi, come diceva anche Pagliarini, questi servizi hanno sottratto sicuramente anche utenti all'utilizzazione illegale, perché hanno dragato moltissimi consumatori da quell'area. Parlo dei servizi di streaming audio, ma anche di quelli video. Non dimentichiamo che comunque fenomeni come YouTube e Vevo hanno anche loro delle percentuali di crescita non indifferenti. Tra l'altro, come sottolineava Enrico, perché ne abbiamo parlato prima della trasmissione, ci siamo fatti una chiacchierata, prima c'era solo la pirateria, adesso sì, che c'è un'offerta legale e anche di buona qualità, è più facile, paradossalmente, anche questo è importante, che ci sia un'offerta disponibile e facile da raggiungere, anche più facile di, sì, della pirateria. Oggi in effetti non ci sono molti, ma diciamo che non ci dovrebbero essere motivi per la pirateria perché è illegale, ok? Però effettivamente nell'utilizzo quotidiano è molto più bello ascoltare, e anche come user interface, come esperienza utente, musica attraverso questi servizi, piuttosto che andarsi a cercare cose sui servizi pirata. Una volta sui servizi pirata si trovava tutto, anche oggi si trova tutto, però effettivamente tutto lo si trova anche in questi servizi, cioè oggi è molto meglio utilizzare questi servizi piuttosto che la musica piratata, cosa che non è ancora vera per il video. Certo, in questo Enzo la musica video musicale. In questo la musica è più avanti, ha sempre aperto un po' la strada al resto, Enzo. Ma diciamo due cose sicuramente interessanti. Uno, da un lato, è la quantità di catalogo e di comunque repertorio che è stata immessa in queste piattaforme. Noi pensiamo che oramai sono disponibili 24 ore su 24, sostanzialmente 7 giorni su 7, 40-45 milioni di brani su queste piattaforme, e quindi significa che praticamente noi abbiamo il tempo per ascoltare tutto quello che vogliamo in situazioni sempre più, come dicevo prima, di mobilità, di condivisione, perché poi il servizio streaming, una delle potenzialità innovative che ha avuto rispetto ad altre offerte di contenuti è stata soprattutto la parte social. Non dimentichiamo che oggi condividere esperienze, condividere emozioni con altri consumatori o fan di musica è un aspetto fondamentale. La musica oramai domina su piattaforme come YouTube, ma anche su Twitter e Facebook, e nell'ambito di questi servizi è comune trovare playlist embeddate, passatemi questo termine orrendo, però lo si usa da molto tempo, embeddare all'interno delle proprie pagine dei servizi social le proprie playlist, e questo è un aspetto che porta anche una certa partecipazione del fan al processo creativo, se vogliamo chiamarlo così, ma soprattutto a quello di condivisione, cioè di avere altri fan, amici col quali condividere le proprie playlist, i propri interessi verso generi musicali piuttosto che artisti. Questo è un aspetto che ha sicuramente dato un ulteriore boost a questo tipo di offerta. Sì, anche per scoprire nuova musica, perché se il mio amico, invece di dirmelo personalmente, mette sui social che ascolta quella musica, io magari scopro delle canzoni nuove. Questi servizi, Mazza, sono sostenibili economicamente? Perché buona parte, diciamo che l'entrata in questi servizi è gratuita, e molti utenti si fermano a quel livello e non pagano per avere qualcosa in più, anche una qualità audio maggiore, però mi risulta che tutte queste piattaforme in giro per il mondo non siano ancora in attivo. È vero che siamo solo agli inizi del fenomeno? Non è che c'è il rischio che fra qualche anno falliscano tutte? No, sicuramente quello che accadrà, questo è inevitabile, ci sarà un consolidamento. Oggi ci sono moltissime piattaforme, è probabile che poi nel futuro ci sia un assestamento di questo mercato. Sicuramente questi sono servizi che, per essere sostenibili, devono avere milioni e milioni di consumatori, quindi è la platea che deve continuamente aumentare. Nei paesi nordici, faccio un esempio della Svezia, ad esempio, dove i servizi di streaming sono dominanti, comunque i ritorni per gli artisti e per le case discografiche sono sicuramente stati molto molto interessanti, nonché legati a numeri, quindi a ricavi molto piccoli per singolo stream, come è noto, su cui spesso ci sono anche delle polemiche, però dal punto di vista del numero di stream realizzati quotidianamente, realizzati settimanalmente o mensilmente da parte dei consumatori svedesi, il dato finale mostra che comunque c'è un ritorno significativo. Tutto sta nel rendere questi servizi sempre più appetibili e soprattutto renderli consumabili nel modo più facile. Questo è l'aspetto sul quale, per esempio, le collaborazioni, quindi il co-marketing, ma anche le iniziative congiunte tra operatori telefonici, faccio un esempio, e servizi streaming è stato uno degli aspetti molto interessanti. Noi parliamo sempre Spotify, Deezer, YouTube, ma pensiamo in Italia anche a Team Music, un servizio offerto da Telecom, ad esempio anche questo servizio che è integrato all'interno dell'offerta di connettività mobile ha dato sicuramente, ha attratto sicuramente i consumatori, lo stesso stanno facendo le altre piattaforme facendo accordi con gli operatori mobili. Si tratta quindi di fare escalation sul numero dei consumatori, questo è fondamentale per poi arrivare a quelle dinamiche che, economiche che consentono il ritorno degli investimenti per tutta la filiera ovviamente. Allora, Mazza ha citato Team Music, me l'ero segnato anche io perché effettivamente nel panorama degli operatori questo è un servizio interessante perché costa poco, 4 euro al mese, quindi insomma molto poco, e la particolarità è che i dati, il traffico dati che facciamo con questo servizio musicale è inserito in questo abbonamento, quindi non incide sul monte dati il traffico. Quindi noi arriviamo al 20 del mese col traffico che, dati esatto. Già esaurito. Sì. I nostri soldi erano già finiti, come dopodiché cantava il poeta. C'è tutto un discorso sulla neutralità della rete, perché questa è una palese violazione della neutralità della rete, ma visto che in Italia non ci sono leggi specifiche su questo settore, in altri stati qualcuno o qualche operatore telefonico è stato multato dalle autorità nazionali, però non è il caso dell'Italia. Una domanda sulla qualità audio, perché alcuni dicono che il prossimo step sarà offrire una qualità audio più elevata. Ci sono anche progetti supportati soprattutto e finanziati da artisti. Cito due casi giusto per farci capire. Allora, questa settimana è arrivato l'annuncio che Jay-Z, io non lo conosco, tu Marta lo conosci, è famoso, cioè, famoso Jay-Z, hai detto che è famoso, quindi famoso, ha speso 56 milioni di dollari per comprarsi dalla norvegese Aspiro, adesso parlo, cito in italiano i nomi, ha comprato un servizio che si chiama Tidal, che è attivo negli Stati Uniti e nel nord Europa, ancora in Italia no. L'altro grande progetto è stato lanciato già nel 2012, cioè è stata lanciata l'idea, è stato lanciato ufficialmente al Consumer Electronic Show all'inizio di quest'anno negli Stati Uniti, il famosissimo, famoso almeno per gli addetti ai lavori, Pono Music di Neil Young, che dice, Neil Young tra l'altro quest'anno compie 70 anni, alla fine dell'anno, verso la fine dell'anno, alla vigilia dei 70 anni dice dobbiamo dare qualità audio ai consumatori, ha lanciato questo servizio. Non so però se avranno successo, e vorrei chiedere un parere a Mazza, perché oggi è vero che se prendiamo come punto di riferimento la qualità del CD, nessuno dei servizi online è paragonabile a quella qualità, però alle orecchie di molti ascoltatori probabilmente i servizi che oggi vengono offerti sul mercato, soprattutto quelli a pagamento, sono sufficientemente buoni di qualità. Avranno successo? Cioè sarà the next big thing? Ma dipende, ci sono aspetti diversi che sono legati anche agli interessi dei consumatori, nel senso che noi vediamo per esempio nello streaming che è molto legato ai singoli e alle novità, è un fenomeno prevalentemente teenager, quindi legato al fatto di un consumo immediato di novità e quindi meno attratto dall'aspetto qualitativo ma più attratto dall'aspetto della portabilità piuttosto che la facilità di accesso e la gratuità. Dall'altra parte c'è il consumatore tradizionale di musica, quello che per anni, ma ancora adesso in Italia il 62% del mercato della musica italiana, vale la pena ricordarlo, è fatto dalla vendita di CD e di vinili, e quindi è un mercato, quello del prodotto discografico, che è retto prevalentemente dai consumatori di musica, dagli heavy buyer, chiamiamoli così, di musica. Questi sono sicuramente soggetti che sono interessati ad avere un'offerta di qualità. Un'offerta di qualità che però nelle reti digitali attuali deve fare scontrarsi con quelle che sono le difficoltà. Pagliarini prima parlava degli aspetti legati alle telecomunicazioni, sappiamo tutti ad esempio in Italia quali sono le problematiche soltanto per far decollare una rete 4G o avere comunque una banda larga broadband diffusa in quella maniera tale da garantire la sostenibilità di servizi ad alta qualità. Vediamo il problema del video che ha in aree appena fuori, in aree rurali o appena fuori dalle città, dalle grandi città, e quindi possiamo immaginare che comunque questi servizi devono essere sostenuti da un'alta qualità delle reti. Quello è sicuramente the next big thing, ma deve essere legato a un aspetto che abbiamo sottolineato prima, cioè comunque garantire facilità di accesso, garantire immediatezza nella scelta dei prodotti e soprattutto avere questa offerta ampia e vasta di tutte quelle che sono le novità discografiche in uscita, non solo magari legate solo ad alcuni prodotti, perché sicuramente il consumatore di musica tradizionale è un consumatore che può essere attratto da questi servizi, anche se rimane prevalentemente ancora legato per ora a un prodotto che è sofisticato non solo nella parte qualità audio, ma anche magari addirittura nel packaging o quant'altro. Voi sapete che infatti il prodotto fisico più venduto oggi sono prodotti cofanetti sofisticati ad alto costo piuttosto che il prodotto a basso costo. Allora Enzo, io voglio ancora richiamarti, Enzo Mazza, presidente della Federazione Italiana Musicale, perché dobbiamo parlare anche del vinile. Adesso non abbiamo tempo perché il nostro tempo è agli sgoccioli, però magari poi ci rivediamo a Sanremo, voglio sapere un po' qualcosa di più del vinile. Grazie Enzo Mazza per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Ciao, presto. Grazie Enzo. Ciao. Enrico, noi ci risentiamo tra un attimo perché devo chiederti almeno un'app della settimana. A proposito di Next Big Thing, il vinile. Sì, a tra poco. Il sabato del villaggio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Oh yeah. We fell in love. Beh, Pagliarini non ce la fa, deve fare il DJ. Ti piace Calvin Harris? Sì, allora la canzone mi è nota, non sapevo che si chiamava così l'artista. Ecco, vuole fare il DJ, ma non è proprio. Diceva prima Mazza che molti che ascoltano questi servizi sono teenager, che sono più attratti dalla novità più che dalla qualità audio. E mi viene in mente quello che succedeva un po' di anni fa. Io prendevo in giro le mie compagne di scuola che ascoltavano alcune radio mono quando c'erano le prime radio stereo. E dicevo, ma che ascoltate la radio mono? Cioè, c'è lo stereo, ascoltate la musica con un po' di qualità stereo. E loro invece erano più attratte dalla novità musicale più che in dalla qualsiasi qualità. Quindi non è cambiato niente. Uguale. Perfetto. No? Enrico, le app, perché non ti ho ancora chiesto le app della settimana o l'app della settimana. Io mi sono concentrato sulla musica, perché stiamo parlando di musica. Inizio da quel che avevo messo per ultime, però mi preme citarle. Sono due app che sono utili per scoprire nuova musica. Allora, se siamo un po' curiosi e ci piace, insomma, magari vogliamo anche, abbiamo tempo e spendiamo tempo per andare a cercare nuova musica, nuove proposte, cito due servizi che sono noti da tempo nel mondo della musica. Uno è Mixcloud e l'altro è SoundCloud. Ci sono anche servizio che sono web, parenti? Non lo so. Non penso, però sono accomunati dal fatto. Diciamo che cloud. Sono nati nel momento in cui tutti parlavano di cloud, quindi Mixcloud, SoundCloud. Ci sono, oltre che brani musicali, anche di artisti sconosciuti, ma devo dire che in alcuni casi molto, molto belli, molto gradevoli, anche, soprattutto su Mixcloud, delle selezioni musicali fatte, che ne so, da DJ, ma non necessariamente di musica dance. Quindi uno potrebbe appassionarsi di un artista che mette insieme canzoni diverse, si ascolta un bel file di 20 minuti, mezz'ora, molto interessante. Oltre a Spotify, Deezer, che sono tra i più noti, cito un'app che è disponibile per tutte le piattaforme, ma proprio tutte quelle che potete pensare, che si chiama Soundtracker, fatta da italiani, Daniele Calabrese, ha sede a San Francisco ma anche a Cagliari. Molto interessante, c'è già più di 1 milione di utenti in tutto il mondo, ci sono 32 tracce musicali. La particolarità, perché molti di questi servizi fanno più o meno le stesse cose, no? Però la particolarità di questo Soundtracker è che è molto social. Diceva prima Mazza che uno dei trend è quello di scambiarsi opinioni, io ascolto quello, bla bla bla. Soundtracker è molto, molto social, si possono condividere le canzoni, la musica anche in base al luogo dove siamo, dove ci spostiamo. E poi ci sono veramente tantissime altre applicazioni. La differenza sostanziale è magari sulla proposta dei canali dedicati. Su quasi tutti questi servizi hanno dei canali in base al momento della giornata, cioè ti propongono, che ne so, musica adatta per il la risveglio, cena, l'aperitivo. Esatto. E forse in molti casi la differenza sta lì. Ecco, tu prima hai citato Deezer, è la ragione per cui io avevo scelto Calvin Harris, perché è stato il più ascoltato nel 2014, prima per par condicio, prima Spotify, giusto, adesso giusto, Deezer. Giusto. Enrico, rimani con noi, sai perché? Perché adesso andiamo a sentire cosa esce al cinema, visto che tu sei un appassionato, sì. E poi mi chiami la sera e mi dici cosa vado dove a vedere al cinema, esatto. Sveliamo. Abbiamo in linea Franco D'Assisti, Franco, buonasera. Sì, un saluto, sono ufficialmente geloso perché i consigli te li posso dare solo io. Ah, ecco, vedi, no, perché ecco. No, sai cosa c'è? Perché Pagliarini li vuole personalizzati, cioè non il film da vedere in generale, finché deve vedere lui. Cioè Marta sa. Sì, io so esattamente esattamente l'oroscopo praticamente. Sì, esatto. Franco, diamo subito un'indicazione pratica. Questo sabato una rosa un po' più magretta, perché dobbiamo parlare del Presidente della Repubblica, dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Sì, guarda, ne approfitto, Marta, per dire che proprio per colpa del Presidente della Repubblica la Rosa Purpurea va in onda alle 18:30, ecco, e dura mezz'ora più oggi, piccolina per una volta, per parlare di Mattarella. Per Mattarella si può fare, si può fare. No, ma io l'ho fatto anche per Napolitano, quindi ci sono sempre vedi, porti bene tu all'elezione. Franco, dici allora cosa andare a vedere questo fine settimana al cinema. Al volo, per chi ama l'arte, c'è Turner, il film firmato da Mike Lee, quindi da una grande firma del cinema internazionale, sulla vita del famoso pittore, con Timothy Spall straordinario nel ruolo di protagonista, e questo è assolutamente un film da non mancare. Per chi ama la letteratura abbiamo Gemma Bovary, che è invece un film, una commedia francese molto divertente, con un Fabrice Luchini davvero in grandissima forma, Gemma Arterton, protagonista femminile, storia di un benestante ex parigino, sai, quella gauche parigina un po' imborghesita, che a un certo punto si ritira in campagna a fare il panettiere perché è meglio così, grande passione per la letteratura. Nel suo villaggio arriva una coppia di inglesi che si chiamano Gemma e Charles Bovary. E allora dai, da Bovary a Bovary ovviamente il passo è breve, ed è una commedia veramente molto molto godibile. Ti do altri due titoli, uno Unbroken, perché c'è la regia di Angelina Jolie, e perché è il tentativo di fare un cinema comunque sempre etico, perché poi può piacere o no il cinema della Jolie come regista, però insomma lei ci prova sempre a raccontare delle storie con la S maiuscola. Qui è la storia dell'atleta olimpionico ed eroe di guerra Luis Zamperini, che insieme a due membri di un equipaggio riuscì a sopravvivere su una zattera per 47 giorni durante l'attacco della Seconda Guerra Mondiale. E questo è il penultimo dei messaggi, dei suggerimenti. Io ne terrei uno per tutti quelli che hanno figli da portare al cinema in famiglia, perché esce il terzo capitolo della ormai saga di Una notte al museo, Il segreto del faraone, e chi ha amato le prime due si è divertito, rivedrà Ben Stiller e compagnia in questa nuova kermesse. Quindi insomma, mi sembra che la settimana si presenti piuttosto ricca. Infatti c'è anche Enrico Pagliarini che sta prendendo appunti per decidere cosa deve andare a vedere lui. Italiano medio di Maccio Capatonda. Ne parliamo tra poco di Maccio Capatonda, del quale invece io sono una fan scatenata. Enrico, no, io sì. Straordinario. Il film adesso è così, però lui è veramente un personaggio molto molto interessante. Io sono impazzita anche per il film, io sono proprio critica su Maccio Capatonda. Di cosa parlerai in questa rosa light per questa sera? Guarda, di quello che abbiamo preannunciato, quindi è un invito all'ascolto per sviluppare questi film. Ci concentriamo proprio sui film della settimana, rinviamo all'ultimo momento una bella intervista con Peter Greenaway che avevamo pronta, ma siccome il suo film Pelican Company sta girando l'Italia come se fosse una tournée teatrale, stasera proprio è tra l'altro a Trieste, domani a Roma e poi arriverà a Milano a marzo, ce lo teniamo buono Greenaway, perché ha da dirci tante cose sulla sua visione dello stato di salute del cinema molto molto interessanti. Oggi invece grande attualità, giochi, e come sempre insomma cerchiamo di dire alla gente come passare il weekend cinematografico. Grazie a Franco D'Assisti per essere stato con noi. Allora, appuntamento oggi alle 18:30, se ho capito bene, sì. per dare spazio a uno speciale, insomma, la giornata oggi oggi è particolare con l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Grazie Franco, a più tardi allora, ti aspettiamo in radio. Ciao, ciao a tutti. Io ringrazio Franco D'Assisi, intanto abbiamo parlato di Italiano Medio, caro Enrico, Italiano Medio ha fatto solo nell'ultimo giorno 347.512 euro di incasso con 50.742 presenze e questo solo ieri, già al secondo giorno di uscita. No, non scuotere la testa, Italiano Medio è un film dalle letture molto molto molto profonde e dopo sentiremo allora anche... ho sbagliato il trailer, io ho visto il trailer ma detto, perché non tu l'andrò no, mai ma, a vedere. Ma no, ma perché tu devi... Allora, fai bisognerebbe una cosa, fare la rubrica c'è... i film da non andare a vedere. Ah, ma io sono disposta a farlo, sono disposta a farlo. Invece con Maccio Capatonda, di Maccio Capatonda parleremo anche tra poco, ma tra poco cercheremo anche di andare alle origini di un fenomeno... cioè American Sniper, non so se ce l'aspettavamo che vincesse così tanto, così forte al botteghino, che è il film più visto della stagione. Cercheremo bellissimo di capire perché è bellissimo. Infatti io te l'ho detto subito, tu vai a vedere American Sniper perché era il film per pagliarini. Enrico, grazie per essere stato con noi. Ciao. Podcast già disponibile 2024. Yes. L'appuntamento, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, che perfetto, è una cosa molto seria. E visto che abbiamo parlato di musica, mano a mano che le tecnologie di intelligenza artificiale crescono, in futuro io non ti chiederò più che film andare a vedere, perché ci sarà un'app che me lo dice. Beh, adesso questi suggerimenti ci sono, ma sono ancora un po' acerbi. Ho un suggerimento anch'io. Ho un suggerimento anch'io. Adesso è il momento di GR24, ci ritroviamo tra poco. Il sabato del villaggio. E buongiorno, rieccoci insieme con questo sabato pomeriggio di Radio 24, come sempre il sabato del villaggio in diretta, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Oggi con la cagnola che ha meno voce, dovete essere pazienti, devo anche proprio prendere fiato perché è difficilissimo per me questo sabato pomeriggio, ma ce la faremo. Cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? I libri del momento, le grandi biografie, ne parliamo con Alessandra Tedesco. E poi shopping e smartphone, ma anche gli oggetti più desiderati su eBay. Nel nostro spazio dedicato ai consumi con Maria Luisa Pezzali parleremo di teatro, ma prima restiamo in tema di cinema con, lo dicevamo, un campione d'incassi. Tu vuoi morire? È questo che vuoi? No. E allora spiegami. Dimmi perché lo fai. Ti prego. Io voglio capire. Amore, lo faccio per voi, lo sai, per proteggervi. No, non è vero. Sì che è vero. Io sono qui. La tua famiglia è qui. I tuoi figli non hanno un padre. Ma io devo servire il mio paese. Tu non sai quando smettere. Hai fatto la tua parte, ci siamo sacrificati abbastanza. Che ci vada qualcun altro. Un altro al posto mio? Sì. Non riuscirei più a guardarmi. Allora trova un modo. Lo devi trovare. Ok, ho bisogno che tu torni a essere umano. Ho bisogno di te qui. Lo abbiamo citato prima con Franco D'Assisi, American Sniper. American Sniper è per ora nel box office dell'anno solare, cioè dal primo di gennaio, secondo i dati Cinetel, il film più visto in Italia. 17 milioni di incasso per il film diretto da Clint Eastwood. Ma ce lo aspettavamo? Era previsto un successo così forte per questo film, che è uscito proprio all'inizio di gennaio? Cerchiamo di capirlo con uno dei miei critici cinematografici di riferimento. È critico, è giornalista e anche regista, è stato uno degli ideatori del Festival del Film di Roma, è stato direttore fino a poco tempo fa del Festival di Taormina. Buongiorno a Mario Sesti, buongiorno Mario. Buongiorno Marta, come stai? Io, a parte il fatto che sto tossendo come una disperata durante... Ma infatti io prima, adesso lo confesso, stavo... non ho neanche detto il mio account di Twitter, perché stavo per tossire. Allora ho chiesto a Valeria in regia di mandare la clip di American Sniper in cui diceva tu vuoi morire, io stavo tossendo, vabbè. Speriamo di arrivare fino alle 18. Mario, tu te l'aspettavi questo successo di American Sniper? Beh, insomma, sarebbe ipocrita dire che era prevedibile. Credo di no, anche se poi una volta che uno ha di fronte un successo del genere cerca naturalmente di capire per quali ragioni tale successo è accaduto, naturalmente. Io credo che il successo di questo film sia dovuto al fatto che fintamente è un film realistico ispirato a una storia vera inserito in un contesto contemporaneo. A me sembra che sia il film, diciamo così, più credibile dei supereroi, cioè sia il fumetto più convincente di tutta la nuova del mainstream hollywoodiano degli ultimi 10 anni, che come sappiamo è stato letteralmente infestato, diciamo, dalla contaminazione col fumetto. Perché questo eroe è quello che ci protegge dalla paura più profonda, dalla fobia più radicata in questo momento, che ci siano, cioè, dei terroristi di ispirazione islamica, una civiltà che ci odia fino alla morte, che cattura i nostri reporter, che potrebbe naturalmente fare qualsiasi forma di violenza nei confronti delle nostre famiglie. E questo sniper, che anche la figura, no, anche la stazza di un Capitan America, di un Iron Man, è colui che effettivamente, come citava appunto nel dialogo che avete poco fa fatto sentire, può proteggere noi e le nostre famiglie. Io credo che il segreto del suo successo sia questo. Tra l'altro, poche ore fa Michelle Obama l'ha difeso, perché c'è un dibattito nel corso degli Stati Uniti, in corso negli Stati Uniti, sul film di Clint Eastwood, proprio di qualche ora fa la notizia, per cui Michelle Obama si è inserita nel dibattito definendolo un film complesso, emozionante, un quadro realistico della storia di un reduce della sua famiglia. Quindi addirittura si è esposta Michelle Obama. Mario, secondo te si è anche fortuitamente inserito in un momento storico, in giorni in cui il pubblico aveva il bisogno di sentir raccontare una storia del genere? E questo è quello che capita naturalmente ai film, quando sono naturalmente, cioè, il fatto che si incrocino i pianeti, no? Questo si può dire, credo, una cosa del genere si possa dire anche per Via col vento, tanto per dirne una, no? A un certo punto di qualche annetto di fa, cose, certo. A un certo punto è di dirci delle cose a cui siamo molto interessati nel momento in cui ne abbiamo più bisogno. Se poi posso fare un pochino il critico cinematografico, normalmente devi, non posso non fare devi. Almeno due riflessioni. Uno, che si tratta comunque di un film squadrato, semplice, roggio, molto elementare, che tra l'altro sono gli altri due che stanno in giro, no? Imitation Game e La teoria del tutto. Sono tutte e tre biografie esemplari, che però raccontano delle storie diciamo particolarmente interessanti in maniera particolarmente elementare, no? E quindi credo che il cinema, da questo punto di vista, ci dia delle storie molto semplici, molto comprensibili, in un momento, per l'appunto, come dicevi tu, in cui ne abbiamo bisogno. Quindi c'è paradossalmente uno schema quasi religioso nel nostro bisogno di avere dei miti che ci aiutino ad accettare la realtà, a comprenderla, e che siano semplici e molto divulgabili. Naturalmente faccio due semplici obiezioni. Uno, lo stesso regista di American Sniper, Clint Eastwood, è il regista per esempio degli Spietati, che è uno dei film più complessi su cosa sia il bene e cosa sia il male, no? Mentre invece American Sniper ne sembra così convinto. E due, negli stessi giorni in cui il film trionfa per esempio nel Downloading e anche nel Golden Globe, una serie che si chiama The Affair, che è esattamente il contrario, cioè il romanzo, l'ambiguità, la complessità delle cose, il mistero, no? I punti di vista, bella, che, bella. Mi fa impressione che al cinema chiediamo uno schema proprio così manicheo, no? che ci aiuti a proteggerci dalla complessità e dalla difficoltà del mondo. E invece la televisione, che una volta era quella più elementare, più manichea, più semplicistica, sia diventata il luogo della grande letteratura, diciamo così, per immagini e suoni. Questa inversione di ruoli mi colpisce molto. Mario, parliamone ancora, ti devo assolutamente richiamare. Grazie a Mario Sesti per essere stato con noi. A presto, Mario. A presto, ciao Marta. E adesso noi parliamo dell'altro campione, quello che appunto ha sbancato il box office questo fine settimana. Continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generare l'erciume che ci circonda. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Con questo la usi solo il 2%. Come il 2%? E lo abbiamo detto, Maccio Capatonda, col suo Italiano Medio, è andato benissimo nei primi 2 giorni di programmazione. Io, l'ho detto prima Enrico Pagliarini, sono assolutamente acritica, perché sono una fan scatenata di Maccio Capatonda, che si è detto, emozionato, sono contenta che abbia reagito così. Eccolo qua, Maccio Capatonda. Abbastanza emozionato e... da quando sono piccolo ho sempre sognato di fare un film, quindi in un certo senso tutto quello che ho fatto è stato anche propedeutico, e quindi arrivati a un film ci si è arrivati, sì, leggermente, diciamo, forse con i tempi maturi, e questi tempi mi hanno permesso di magari di scrivere una storia che mi hanno anche imposto di scrivere una storia, perché non volevo fare un film che fosse un insieme di gag, proprio perché ci tengo molto al linguaggio filmico, ai film. Sono un cinefilo, li amo molto, quindi volevo che fosse un film vero, fosse adatto alla sala cinematografica, e che quindi raccontasse una storia che avesse uno sviluppo dall'inizio alla fine. Ma la cosa principale che ho tentato di fare è quella di, appunto, di raccontare una storia. Tu hai preso in giro la politica, hai preso in giro anche la religione. Qual è il tuo rapporto in questo momento con la satira, con la libertà di espressione? Guarda, il mio rapporto è molto semplice. Io faccio quello che mi viene in mente e fortunatamente nessuno me lo impedisce. E il fatto di fare satira o di prendere in giro il paese non è neanche tanto volontario quanto l'unico mezzo per me possibile, cioè l'unico modo possibile di esprimermi. E a chi criticherà la volgarità? Ma no, il film non è più volgare di quanto lo sia questo paese. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con il nostro sabato del villaggio. Non vi ho ancora dato i nostri strumenti per contattarci, l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. È il momento di parlare di libri. Già abbiamo toccato l'argomento poco fa con Mario Sesti, l'argomento di oggi, appunto, rimaniamo in tema cinematografico con il film che, appunto, dicevamo è campione di incassi. Questa è la colonna sonora di American Sniper. Ne abbiamo parlato di questo successo travolgente al botteghino, ma torniamo a parlarne anche nel nostro spazio dedicato ai libri. Buon pomeriggio Alessandra Tedesco. Alessandra. Ciao Marta, ciao a tutti. Sì, effettivamente è uno dei libri di cui si sta parlando in questo momento. È entrato proprio la settimana scorsa nella classifica dei libri, dei 10 libri più venduti in Italia, ed è il libro che ha ispirato, come dicevi tu, il film American Sniper. Il libro si intitola American Sniper, autobiografia del cecchino più letale della storia americana. In Italia è stato pubblicato da Mondadori nel 2014, sono circa 350 pagine. Questo libro in realtà era stato pubblicato negli Stati Uniti nel 2012, appunto, aveva poi ispirato, come raccontavate anche prima, il film di Clint Eastwood, e pensa che è stato nella lista dei bestseller del New York Times per oltre 20 settimane. Quindi, insomma, un libro di grande successo che ha dato, naturalmente, come sempre, seguito a un film di grande successo. Ma visto che stiamo parlando di film di grande successo, chissà che futuro avrà questo film, perché è uscito proprio questo fine settimana nei cinema italiani. Stiamo parlando di Unbroken. Unbroken, dicevamo, a me non ha proprio entusiasmato questo film di Angelina Jolie, Alessandra, te lo confesso, non è che sono proprio impazzita per questo film. Neanche io posso dirlo, 2 ore e 17 o qualcosa del genere di violenza pura, la storia è meravigliosa, però devo dire il film è troppo pesante. Belle le scene di guerra iniziali, belle le scene sportive, poi tanta violenza, non lo so, il film non è proprio, ma in questi casi di solito si dice, era meglio il libro. Era meglio il libro, ok. Allora parliamo del libro, che è meglio. Visto è che meglio, questo è meglio il libro. È meglio il libro, dai, è meglio il libro. Il libro si intitola Sono ancora un uomo, sottotitolo Una storia epica di resistenza e coraggio. L'ha scritto Laura Hillebrand, americana. In Italia è stato pubblicato qualche anno fa, nel 2012, da Mondadori. Il libro, insomma, è bello corposo, sono 500 pagine, e racconta la storia, che poi viene raccontata naturalmente anche nel film, di questo italo-americano che concorre alle Olimpiadi, quelle che furono disputate in Germania a Berlino durante il nazismo, corre, lui fa il corridore, poi viene inviato in guerra, il suo aereo precipita, passa 47 giorni sul, come dire, sul canotto di salvataggio insieme ad altri due compagni di sventura, possiamo dire così, poi viene catturato dai giapponesi, quindi campi di prigionia, insomma. Anche il libro, devo dire, è piuttosto tosto. La storia è meravigliosa perché, tra l'altro, lui è morto nel luglio del 2014, perché nonostante tutte le peripezie che ha dovuto affrontare nella sua vita, ha vissuto fino, credo, 96-97 anni. E tra l'altro ha fatto in tempo a vedere il primo montaggio del film. Film che ha 3 nomination all'Oscar, miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro. Manca, non manca tantissimo, fine febbraio ne parleremo. Altro film candidato all'Oscar, la candidatura invece con la nomination a miglior attrice protagonista a Julianne Moore è questo Still Alice. Allora, alla più bella e alla più intelligente tra le donne che abbia conosciuto in tutta la mia vita. Grazie, ciao. Tanti auguri. Grazie a tutti. Benvenuta la dottoressa Alice Howland. Spero di riuscire a convincervi che osservare i primi passi di questi bambini entro... Alice, dove sei stata? Sono andata a correre. Spero che ti sia divertita perché hai fatto saltare i nostri piani per la cena. Eccolo qua, questo Still Alice. Stiamo parlando dei film di grande successo in questo periodo e dei libri che li hanno ispirati. E quindi anche qui Alessandra Tedesco, per sapere tutto di Still Alice bisogna sapere anche che è tratto da un libro. Naturalmente, perché ci sono veramente tanti libri biografici di grande successo. Ci sono proprio dei lettori appassionati di biografie. E questo è un periodo in cui le biografie vanno molto e si parla molto di queste biografie. Se ne sta parlando ovviamente anche di Still Alice, scritto da Lisa Genova. È stato pubblicato in Italia a gennaio del 2015, quindi insomma da pochi giorni, dalla casa editrice PM. È curioso come è nato anche questo libro, perché Lisa Genova per lei è stato, come dire, il primo romanzo. Lei aveva studiato insomma parecchio la malattia, l'Alzheimer, di cui appunto parla nel libro, poi si parla nel film, e aveva iniziato a distribuire questo libro porta a porta, cioè andava di casa in casa a dire insomma volete comprare questo libro eccetera. Poi l'ha scoperto un grande editore americano ed è diventato un caso editoriale, è stato tratto il film e quindi è uno dei libri di cui si sta parlando in questo periodo in Italia, in contemporanea all'uscita sia del libro che del film. Hai detto libri biografici, vabbè dai, andiamo avanti con questi libri biografici. Ti faccio un indovinello. Vedo che hai di qualcosa. Tu fai finta di non vedere la copertina, tanto l'hai già vista. L'ho vista. Allora, una delle biografie forse più importante degli ultimi tempi è un libro di cui ancora adesso si parla. Così ti leggo giusto un piccolo estratto. Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure continuo a giocare, continuo a palleggiare tutta la mattina, tutto il pomeriggio, perché non ho scelta. Per quanto voglia fermarmi, non ci riesco. Continuo a implorarmi di smettere e continuo a giocare, e questo divario, questo conflitto fra ciò che voglio e ciò che effettivamente faccio, mi appare l'essenza della mia vita. Vabbè, guarda, mi bastava odio il tennis. Beh, mi bastava quello, Andrea Agassi Open. Io ero una tifosa di Boris Becker, ma la biografia di Boris Becker in Italia non è ancora uscita e secondo me non è altrettanto bella, perché questo libro è fulminante. Questa non è solo una biografia di un tennista, è di un uomo che veramente ne ha passate di tutti i colori, un'infanzia solitaria, poi il rapporto con le droghe, è diventato un campione suo malgrado. Poi grandi storie d'amore con personaggi anche noti, Brooke Shields, poi il grande amore della sua vita, la tennista Steffi Graf. Non tutti però sanno che questa biografia non è stata scritta da Andrea Agassi. Sul libro, sulla copertina anche italiana, c'è scritto solo il suo nome, pubblicato da Einaudi, sottotitolo La mia storia. In Italia è stato pubblicato nel 2011 e invece l'ha scritto il cosiddetto ghostwriter, cioè quello che scrive nell'ombra e che è il vero autore di questo successo. Lui si chiama J.R. Moehringer, è un giornalista americano, tra l'altro specializzato nella scrittura di biografie, quindi insomma aveva già preso la mano con le biografie. e Open può essere sicuramente considerato un long seller. Dicevamo, in Italia è uscito nel 2011, fino ad ora ha venduto 700.000 copie ed è sempre stato in classifica, quindi vuol dire long seller, un libro di cui si continua a parlare da anni. E tempo fa ho intervistato e incontrato J.R. Möhringer, che mi ha così spiegato che metodo avevano utilizzato lui e Agassi per scrivere appunto Open. It was not efficient. We sat around and talked for a long, long time. Non è stato un metodo efficiente. Noi semplicemente parlavamo molto, passavamo molto tempo insieme. Io sedevo su una sedia reclinabile, lui sul divano, come se io fossi un po' il suo terapista. Non andavamo in ordine cronologico, ma andavamo dove ci portava la conversazione, e la conversazione ci ha portato anche in posti inaspettati. Dopo alcuni mesi, una signora ha trascritto i contenuti di queste conversazioni che erano state registrate, e a quel punto avevo davanti un blocco di pietra da cui iniziare a scrivere il libro. Era una persona fidata, discreta, un'amica di un'amica. Avevamo bisogno di mantenere la massima segretezza su quello che ci raccontavamo. Le avevamo anche dato un nome in codice e lei sapeva che doveva tenere la bocca chiusa per tutto il tempo. Quando è uscito il romanzo è stato pubblicato come Open di André Agassi. Questa cosa le ha dato un po' fastidio, stare un po' nell'ombra, essendo lei di fatto l'autore del successo? Oh no, no. Andre and I had many talks about putting my name on the cover and he wanted my name on the cover. Oh no, no. Andre e io abbiamo parlato molto della possibilità di mettere il mio nome in copertina. Lui lo voleva. Io ci ho pensato, ma dopo aver visto la foto che sarebbe stata sulla copertina del libro, una foto della sua faccia in uno dei momenti più duri della sua vita, ho capito che là il mio nome non ci poteva stare, sia per ragioni estetiche che letterarie. Agassi è stato comunque molto generoso, mi ha fatto partecipare a tutti gli eventi e io non mi sono mai sentito nell'ombra. La cosa importante è che tutti abbiano amato la storia e si siano sentiti coinvolti e vicini a lui. Il fatto che ci fosse un ghostwriter non era così importante. Io comunque ho scelto di essere un ghostwriter e non me ne sono mai pentito. I chose to be a ghost and I've never regretted it. Devo dire che chi non avesse ancora letto Open non deve perdere tempo, perché è veramente un libro bellissimo, anche per i non appassionati di tennis, ovviamente. Alessandra, so che hai una segnalazione di un'iniziativa interessante. Sì, a proposito di bio, visto che stiamo parlando di biografie nei libri e nel cinema, c'è un'iniziativa molto interessante che riguarda Milano, Roma e Bologna, dove da settembre a maggio, una volta alla settimana, si proiettano film e docufilm che raccontano appunto vite più o meno famose. Si tratta di film in anteprima, in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'idea è nata anni fa a Bologna grazie al Biografilm Festival. A Bologna questi film vengono proiettati al Cinema Odeon, a Roma al Cinema Adriano, a Milano al Cinema Colosseo. Basta andare naturalmente sul web e trovare tutto il calendario. Insomma, sono le biografie che poi vengono tratte dai libri di cui stiamo parlando. Beh, noi abbiamo parlato delle biografie di Enrico Ruggeri nella prima parte del nostro Sabato del Villaggio. Enrico Ruggeri, che lo ricordo, sarà a Radio 24 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.30. Alessandra, io chiuderei con una segnalazione importante. Questa sera il cacciatore di libri, un ospite da non perdere. Sì, un ospite da non perdere, Harry De Luca, perché si sta parlando molto del suo piccolo pamphlet La parola contraria, pubblicato da Feltrinelli. È il piccolo saggio in cui Harry De Luca si difende dall'accusa di istigazione alla violenza per aver dichiarato che la TAV va sabotata. C'è un processo, la prima udienza c'è stata mercoledì scorso, è stata aggiornata al 16 marzo. De Luca è stato denunciato da una delle società che sta costruendo la linea ferroviaria e l'accusa sostiene che le sue parole, cioè l'aver dichiarato pubblicamente la TAV va sabotata, hanno spinto i NoTav a compiere azioni violente. E allora in questo pamphlet Harry De Luca si difende, sentiamolo. Io credo che uno scrittore con le sue opere, con la sua scrittura, con le sue parole possa istigare alla scrittura o alla lettura. Al di fuori di questo ambito non è capace di istigare altro, se non delle conseguenze da lui completamente impreviste o non controllabili da lui. Per esempio i libri di Messner, no? hanno istigato molti lettori a avvicinarsi alla montagna, a praticare l'alpinismo e quindi a subire anche degli incidenti in montagna. Sono morti molti gli alpinisti, muoiono in montagna, e sono alpinisti che hanno magari letto i libri di Messner e hanno cominciato da ragazzo a andarci proprio su quella spinta. Possiamo accusare Messner di istigazione al suicidio in montagna? Ecco, di questo si tratta, insomma. La versione integrale, quindi, questa sera alle 22 nel Cacciatore di Libri. Alessandra, non segnaliamo mai qual è il tuo account di Twitter per chi volesse trovarti al di là del Cacciatore dei Libri del Sabato del Villaggio. Sì, Ale Teddina, su cui insomma potete essere informati anche su tutte le novità che andranno nel Cacciatore. E anche su cui possiamo prenderti un po' in giro per sempre. Questo Ale Teddina. Sempre, sempre. Grazie ad Alessandra Tedesco, quindi a questa sera col Cacciatore di Libri. Ciao Marta, ciao a tutti. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze. Intanto arrivano i vostri messaggi al 349-238-6666. Insomma, c'è un ascoltatore che dice che Mario Sesti, che è il critico con cui abbiamo parlato prima, dice che i critici cinematografici, se non vedono un film complesso, non sono felici. Insomma, Mario Sesti ci ha spiegato perché non gli è piaciuto American Sniper. Il nostro ascoltatore invece dice che i critici hanno questo vizio, chissà che se è vero. E poi sempre su American Sniper, Svergomas su Twitter: il segreto del successo di American Sniper, il trailer più bello e coinvolgente degli ultimi anni. E invece Chiara Landini ci manda un suo suggerimento di libri, lo inoltrerò ad Alessandra Tedesco. Il bar delle grandi speranze, adesso vado a dirlo ad Alessandra, chissà se lo conosce, magari se ne parla o se ne ha parlato nel Cacciatore di Libri. Adesso però è il momento dei consumi, ne parliamo con la nostra esperta Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio Maria Luisa. Ciao Marta, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Subito una domanda, Marta: sai qual è il miglior compagno per fare shopping? Non so, il miglior amico dell'uomo, il cane, il miglior compagno per fare... No, non lo so, dimmi tu. È lo smartphone. Beh, il miglior compagno un po' per tutto. Per lo shopping perché? Perché così ci dice, così ci racconta le nuove abitudini di acquisto dei consumatori l'Osservatorio Mobile Marketing and Service del Politecnico di Milano. Sono dati che ci dicono non solo che la navigazione via mobile ha superato quella da PC, ma che si sta in rete sullo smartphone o sul tablet soprattutto per fare shopping, per comprare direttamente online oppure per informarsi, comparare i prezzi, cercare le offerte e poi magari andare in negozio. Ma ci facciamo raccontare tutto questo da chi ha fatto questa ricerca, che è Andrea Boaretto del Politecnico di Milano. Buon pomeriggio Andrea, benvenuto. Buon pomeriggio Maria Luisa, buon pomeriggio Marta. Buon pomeriggio. Allora, voi avete proprio titolato così il vostro rapporto: il miglior compagno per fare shopping, lo smartphone. Che cosa raccontano i vostri dati? Raccontano tante cose. Noi diciamo che è il miglior compagno perché abbiamo una sorta di maggiordomo a portata di palmo nelle nostre tasche. Veramente non è più quello strumento in generale, ma veramente ci aiuta nel fare la spesa. Un dato su tutti: il 78% di chi possiede lo smartphone dice che lo utilizza nel processo d'acquisto, sia per quanto riguarda ad esempio l'elettronica, l'abbigliamento, gli accessori, ma anche la spesa alimentare. Ovviamente viene utilizzato molto di più nell'elettronica, il 60% delle persone, mentre nella spesa alimentare parliamo di un 30% delle persone. Quindi in pratica il consumatore va in un negozio e cosa può fare? Confrontare i prezzi con lo smartphone, capire se l'articolo che sta acquistando lo sta comprando al prezzo giusto, se magari, non so, mi viene da pensare che da qualche altra parte può costare meno, si può fare così? Assolutamente sì, ma in realtà si fanno tante cose, sicuramente il confronto prezzi o anche il tema della promozione, quindi la possibilità di avere il buono sconto direttamente sul telefonino. Ora abbiamo alcune catene che lo mettono nelle app, qualcuno lo mette nell'SMS o direttamente sul sito. Poi c'è un tema che abbiamo chiamato anche di cercare l'ispirazione, quindi sono nel punto vendita, magari scatto la foto, voglio condividere con gli amici anche su Facebook e avere dei commenti, specialmente nell'ambito dell'abbigliamento. Poi non dimentichiamoci la lista della spesa. quindi specialmente nel largo consumo, quindi la possibilità di fare la lista sul telefonino, di personalizzarla, e abbiamo alcuni punti vendita anche che danno suggerimenti al consumatore in funzione della lista della spesa fatta. Ecco, queste dinamiche, Andrea, per che fasce di età funzionano? Allora, sicuramente abbiamo una bella concentrazione sulle parti delle donne, sulle fasce di età dai 25 ai 45 anni nella fase di shopping. Complessivamente nell'utilizzo dello smartphone, nel fare la spesa, specialmente per elettronica di consumo, qui abbiamo una buona percentuale anche di uomini. Io devo dire che in molti negozi ti sgridano se ti fotografi o se fotografi vestiti, però è una bella idea quella di poterlo magari, di poter magari whatsappare l'acquisto appena fatto alle amiche per chiedere un consiglio. Maria Luisa, tu lo fai? Assolutamente sì, e poi entrano in gioco, confermacelo anche tu Andrea, anche le mille app, no, che si possono scaricare legate in qualche modo appunto alla condivisione di quello che fai in rete. Eh certo, perché ci sono sia app dei negozi stessi, sia altre app che tendono volutamente a migliorare appunto l'esperienza di acquisto, quindi tutto il ragionamento che le imprese fanno è rendere l'esperienza d'acquisto nuova, interattiva, un pochino anche magica, per non appiattirsi solo sul prezzo, ma renderci appunto divertente questo momento. Io a volte guardo le app, soprattutto appunto per quanto riguarda i vestiti, anche per curiosare nelle nuove offerte, perché adesso soprattutto le grandi catene hanno le app per mostrare le nuove collezioni, è una cosa che mi piace molto. Ma le guardi solo dal cellulare o anche dal tablet? Dal tablet si vendono meglio in realtà, confesso che soprattutto per alcune catene il tablet consente di vederle meglio, però anche il cellulare in un momento di pausa può servire. Sì, infatti ti posso confermare che specialmente diciamo i brand più noti nell'e-commerce, nell'ambito del fashion, tutti quanti hanno sviluppato sia il proprio sito sia le proprie app nell'ottica appunto non solo di farti vedere i prezzi, ma nell'ottica di crearti un'esperienza interessante, anche nella logica di creare community. Quindi non mi stupisce il tuo comportamento. E anche nella voglia di far venire voglia di comprare qualcosa di nuovo, confermiamo. O di cercare anche l'occasione in alcuni passaggi, perché molte di queste realtà lavorano su un discorso di sconto, però con marche importanti. Abbiamo dato l'ispirazione, Marta, sabato pomeriggio l'orario è quello giusto, quindi quindi smartphone e shopping insieme. Esatto, grazie Andrea Boretto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, ciao, a presto. Grazie, grazie Andrea Boretto. Maria Luisa, adesso è il momento delle strategie anticrisi, come sempre parliamo di come spendere bene i soldi, ma anche come risparmiarli per metterli via e appunto poi spenderli in maniera intelligente. Di cosa parliamo oggi? Sì, a questo punto invece oggi abbiamo deciso insieme a Cristina Lazzati, che abbiamo già in collegamento. Ciao Cristina. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Con Cristina, dicevo, abbiamo deciso oggi invece di prendere come tester, diciamo così, un sito, uno dei grandi protagonisti dell'e-commerce come eBay, per individuare che cosa si mette in questo carrellino online, Marta. Infatti eBay ha reso noto gli oggetti, i prodotti che hanno spopolato nel corso del 2014 e che ci danno senz'altro delle indicazioni importanti sulle tendenze degli acquisti in rete, sui gusti e su che cosa ci spinge a comprare o meno. Cristina. Guarda, come al solito la regina è l'high tech, perché noi sappiamo che poi internet e il mondo dell'e-commerce è partito alla grande proprio un po' da lì, e quindi continua questa cosa. Quest'anno tantissimi wearables. Che cosa significa? Significa tutto quello che ci aiuta a indossare la nostra tecnologia. Prima di tutto i Fitbits, venduti ai quasi 25.000 Google Glass, quindi indossiamo tecnologia e continua in questo modo. Tra l'altro, guardato, ci sono anche dei piccoli dati su quello che ha venduto Amazon, giusto per essere un pochino più democratici, per Natale, e anche lì grandissimo Kindle a tutto spiano, quindi high tech. E poi ci sono, come dire, i modelli che ci piacciono, non ci piacciono, comunque un po' ci piacciono. La signora Clooney, nel momento in cui si è sposata e ha indossato un meraviglioso Oscar della Renta, beh, sono impazziti, e quindi tutti a cercare degli abiti. O che assomigliavano oppure che firmati dal grande stilista. E anche Kim Kardashian, che forse in Italia è un po' meno conosciuta, ma comunque abbastanza da fare scuola, soprattutto per il mondo che si aggira su internet, anche in quel caso ha scelto Givenchy e anche Givenchy è diventato oggetto del desiderio per i nostri internauti. Ricerca dell'originale o di qualcosa di simile, quindi? Diciamo che non è che poi i bei pululi di vestiti di Givenchy, soprattutto sì, da sposa, sì. Però insomma uno se lo guarda e dice ma più o meno lo vorrei così, visto che ce l'aveva la Kim, come si dice a Milano. E vestiti poi, e tecnologia a parte? Poi ci sono i bambini. Secondo voi qual è stato il personaggio, peraltro introvabile, ve lo dice una mamma di una bambina di 5 anni e mezzo, Elsa, protagonista insieme alla sorellana del film Frozen di Walt Disney, Elsa in tutte le salse, dal vestito alla bambola, e in particolare appunto la bambola di Elsa era introvabile prima di Natale, e comunque su eBay si sono riversate tutte mamme, nonne eccetera eccetera alla ricerca di tutto quello che apparteneva al mondo di Frozen, che Disney ha rilasciato, devo dire, con una certa parsimonia nell'anno scorso. E che ha battuto Barbie, questa è la notizia, vero Cristina? Sì, ha battuto Barbie, diciamo che la ragazza ha una personalità, poi questi capelli lunghi, biondi, eccetera, come la Barbie, però insomma anche qualche potere magico in più rispetto alla solita Barbie. E infine, anche per noi che non ci dobbiamo sposare, che non giochiamo più, ahimè, con le bambole, yoga e pilates, quelli sono per il benessere di quest'anno, mentre quello dell'anno scorso, se non sbaglio, era molto più su creme, belletti eccetera eccetera, quest'anno ci siamo impegnati di più e quindi invece di ricorrere alla cosmetica via internet abbiamo comprato molto più abbigliamento per yoga e pilates. Quindi più sani e più sportivi. Sono molto triste per Barbie, ho letto anche questa settimana perdita del valore. Io invece sono ancora della generazione di Barbie, queste cose mi danno un colpo al cuore, ai noi. Sì, effettivamente hai ragione, perché la Barbie ha accompagnato, ma io credo che, come dire, sia una debacle momentanea, ma nel momento in cui, come dire, sparisce o tramonta, che un po' sta già tramontando, il mito di Elsa Frozen, Barbie invece rimane un po' sempre verde, diciamolo. Mia figlia è molto democratica, ha voluto il vestito di Frozen, ma gioca moltissimo con le Barbie. Mi sembra anche la cosa migliore, dai. Favoloso, favoloso. Grazie a Cristina Lazzati, a sabato prossimo. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie a Cristina. Invece Maria Luisa, l'appuntamento con Essere Avere? Come sempre, domani alle 15, non mancate. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con l'ultima parte, l'ultimo blocco del sabato del villaggio, perché dopo il giornale radio delle 17, nel quale ci aggiorneremo ancora sulle reazioni dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, nell'ultima ora del sabato del villaggio ci cambiamo d'abito e sarà il momento di RadioTube con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma nell'ultima parte del nostro sabato del villaggio parliamo di teatro. Tutto iniziò così da una piccola storia familiare, una storia di talento, inventiva, imprenditorialità, ascese e cadute, una storia che si trasforma nel più grande fallimento delle bancarotte mondiali. È insieme la storia più importante dell'economia recente e una grande metafora della crisi. Ormai per Shabbat New York si ferma, chiusi i negozi, vuoti gli uffici. Le contrattazioni a Wall Street si chiudono il venerdì sera, ed è bene che sia così, perché il sabato sarebbe deserto. Anche Solomon Papriski, l'equilibrista di Wall Street, non si vede per Shabbat. Non arriva come ogni mattina a stendere il suo filo fra i lampioni e non beve il suo sorso di cognac là a un passo dal portone scuro. Lehman Trilogy, l'ultima regia di Luca Ronconi, che ha debuttato al Piccolo Teatro di Milano, ha debuttato giovedì. 160 anni di storia di una delle famiglie più potenti d'America, appunto i Lehman Brothers. Partiamo dall'America schiavista, arriviamo alla New York del dopo 11 settembre, arriviamo ancora al sogno americano, alla fine dell'avventura, il 15 settembre 2008. È la storia di una famiglia di commercianti di tessuti che vede cambiare il mondo e che cambia il mondo. Uno dei protagonisti, Massimo Popolizio, è Meyer Lehman. È una ballata, è anche scritta con un andamento di ballata. Credo che il divertimento potrà essere come viene snocciolata questa storia, cioè il modo in cui Ronconi e noi, veramente niente, con delle sedie, una luce fissa e degli attori, riesce a, come dire, a raccontare questa cosa, perché attenzione, non è teatro di narrazione, che molti di noi, insomma, non piace, se il teatro di narrazione fa parte di un altro tipo di costituzione di attori o fanno benissimo altri attori. Noi facciamo un teatro che non è il teatro di narrazione, che è un teatro di interpretazione, ma diciamo narriamo, spesso siamo in terza persona, poi in prima, poi c'è una forma dialogica. Ecco, questa, diciamo, sviluppo, questo snocciolamento, come ti dicevo io, della storia, prevede tanti piccoli cambiamenti, prevede anche molto, diciamo, un virtuosismo personale, no? Soggettivo da alcuni attori. Quindi attraverso queste cose raccontiamo questa storia. Credo che, sai, la storia, insomma, che poi alla fine, cioè, i Lehman Brothers non è che sono proprio delle brave persone all'ultima generazione, no, soprattutto si capisce, e questa forse è la cosa più carina, come dimenticare le proprie origini, come dei ortodossi quasi di Rimpar, un paesino in Baviera, vengono alla terza generazione completamente trasformati in americani. Ecco, cioè dimenticare il concetto di accumulo del denaro, che il concetto di accumulo che è, diciamo, per quanto riguarda nella prima generazione nostra, cioè quasi una cosa sacra o quasi qualcosa che è dettato dalla religione, quindi che ha delle regole, che ha dei precetti, che ha delle cose, viene completamente dimenticato nella terza generazione. E poi c'è fondamentalmente il motivo per cui è andato tutto, diciamo, a catafascio, e che il mercato dà qualcosa di merce che tu tocchi, perché noi vendevamo cotone, il caffè, cioè la merce esiste, a un mercato completamente in cui non c'è più la merce, è un mercato virtuale in cui appunto c'è proprio Meyer, il mio personaggio, che ha la borsa, non è che gli piaceva tanto la borsa, dice nella borsa sembra incredibile che vendono tutto, eppure non c'è niente, si crede che si vende il ferro, ma non c'è il ferro, c'è la parola ferro, capito? C'è la parola, quindi noi vendiamo, cioè in quel posto si vendono parole, non si vendono cose. Nel cast anche Massimo De Francovic, Paolo Pirobon e Fabrizio Gifuni, che così ci ha raccontato l'adattamento del testo di Stefano Massini. Il testo è uno strano oggetto. La cosa più facile da immaginare leggendolo è che sia raccontato da una sola voce, proprio perché non c'è una distribuzione di personaggi, è un flusso, diciamo, ininterrotto, di versi versificati in una lingua molto bella, in cui il lettore è libero di scegliere se c'è un narratore, se c'è una voce unica, se c'è un teatro di personaggi che prendono la parola. In questo senso è una drammaturgia aperta, e questo credo che sia una delle cose che abbia più incuriosito Luca Ronconi nei confronti di questo testo, e che me lo fa sentire vicino. La domanda è banale, ma quando si viene chiamati da Luca Ronconi, cosa si pensa, cosa si prova? No, diciamo, per me è stata una oltre, naturalmente è inutile a dirlo, una grande gioia, ma anche una grande sorpresa, perché per una ragione o per un'altra non ci eravamo mai incontrati diciamo in un progetto teatrale. Ci eravamo incontrati una ventina d'anni fa in Accademia, quando lui era venuto a fare due settimane di corso, ma poi devo dire che tutto sommato mi piace anche l'idea che questo incontro sia avvenuto a queste altezze della vita, diciamo, no? Cioè gli incontri credo che poi io in questo sono abbastanza non fatalista, ma credo che gli incontri arrivino nel momento in cui devono arrivare, altrimenti sono degli incontri sbagliati e sprecati, e quindi questo era il momento giusto, credo. Ma dobbiamo spaventarci di fronte a uno spettacolo così corposo? Vabbè, lo abbiamo chiesto al direttore del Piccolo Teatro di Milano, Sergio Escobar. Mi consente subito di smantellare una specie di superficie, visto che parliamo di presente costante, che quello è un colosso. Non è vero. Lo spettacolo è diviso in due parti, la durata è 2 ore e 35 la prima e 1 ore e 55 la seconda. Nei weekend lo faremo congiunti, perché se uno ha più tempo lo può fare. Il testo è un testo, un libro non direttamente, non immediatamente pensato con la scrittura drammaturgica, quindi nel leggerlo, nella tua testa si formano dei collegamenti in un linguaggio molto bello, molto articolato, per niente piatto, molto evocativo, molto poetico, quelle che chiamavo prima nella conferenza stampa delle sinapsi che agiscono nel tuo cervello di lettore, nei tuoi occhi, no? Per cui ti fermi, riparti, costruisci dei rapporti. Il suggerimento che io do è di avere lo stesso identico atteggiamento di fronte allo spettacolo, cioè non di pretendere di capire, nel senso di capire, latino, cioè comprendo e blocco e assimilo, ma nel lasciarsi portare da queste sinapsi, da questi collegamenti che sono rivisti nella versione teatrale, perché c'è questo gioco del tempo, perché ci sono in realtà dei rinvii interni che hai più per condivisione che non per proposta esplicita da parte degli attori, quindi è un gran gioco di condivisione. Io suggerisco questo come visione. E poi abbiamo sentito, a proposito di questo spettacolo al Piccolo Teatro dedicato ai Lehman Brothers, uno dei protagonisti, un grande del teatro italiano, Massimo De Francovic. Mi sono avvicinato con molta cautela, perché non è un testo facile, lo dico subito, è molto lungo, ma questo lo sa, ormai si sa. E mi sono avvicinato come sempre quando lavoro con Ronconi, cioè fidandomi al 200% di lui, perché è lui che ha una visione globale della cosa, e quindi sono state prove molto, molto faticose, però molto belle. È interessante e divertente vedere che comincia a metà 800 con questi tre fratelli, tre ragazzi che arrivano in Alabama e cominciano a vendere le pezze, i berretti, abiti, stoffe, e la Lehman Brothers diventa, la prima volta è stoffe, abiti, Lehman Brothers, ecco. Poi dopo i figli, i nipoti cambiano completamente la cosa, ecco. E insomma, andiamo verso i pericoli, che aumentano sempre di più. Le due guerre vengono superate brillantemente dalla Brothers, e poi la commedia si chiude proprio al momento dello sfascio. Non c'è un giudizio su quello, ecco.